benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Maria, sede della sapienza. Maria, sede della sapienza. Prega per noi. E Maria, sede della sapienza. Perché oggi c'è il libro della sapienza, quindi dobbiamo particolarmente venerare la Madonna come sede della sapienza. Dunque, siamo giunti al libro della sapienza. Ecco. Tanto se dovesse interessare a qualcuno, è in assoluto il mio, tra l'Antico Testamento penso che sia il mio libro preferito, perché è semplicemente stupendo, proprio. È un libro abbastanza comprensibile, io vi consiglio, quanto mai adatto al tempo di Pasqua, quindi se non avete niente da fare, come sicuramente è, ma anche se avete qualcosa da fare, trovate un po' di tempo per leggere tutto il libro della sapienza. Questa sera leggeremo alcuni brani, ma è un peccato non leggerlo tutto dall'inizio alla fine, soltanto che siccome sono un po' di capitoletti, sono soltanto 19, ci vorrebbe un incontro biblico dalle 7:30, si protrae fino a mezzanotte, il che è un po' troppo. La sapienza sovrana del giusto e della storia, si potrebbe un po' con la S maiuscola, perché vedremo come nel libro della sapienza, la sapienza appare quasi sempre non semplicemente come una virtù, e lo è una virtù. Voi siete tutti quanti bravi, quindi sapete quali sono le 5 virtù intellettuali. Sapienza, la scienza, l'intelletto, niente, eh? Il consiglio e la prudenza, niente, eh? Vabbè. Sì. Però la sapienza, nel libro della sapienza, viene molte volte, come vedremo, raffigurata, come personificata. Tenete presente subito come introduzione che un grandissimo santo, di cui ho parlato già anche oggi pomeriggio in radio, tra le varie opere che ha scritto un libro che si chiama L'amore dell'eterna sapienza. L'eterna sapienza, la E con la E maiuscola, la S con la S maiuscola. Questo grande santo è San Luigi Maria Grignon da Montfort, che aveva una particolare venerazione verso Gesù Cristo come sapienza eterna increata, perché in realtà la sapienza non è altro che la personificazione della seconda persona della Santissima Trinità. Voi sapete che la seconda persona della Santissima Trinità, il Vangelo di Giovanni viene definito il Verbo, in principio era il Verbo, in latino è verbum, in greco è logos, quindi la parola intelligente, tenendo presente che la sapienza è, lo vedremo poi, quell'intelligenza creatrice e ordinatrice di tutte le cose, è ovvio che la si può tranquillamente identificare con il Figlio Eterno di Dio Padre, che nella Santissima Trinità rappresenta proprio, adesso non, tutte queste cose, non scendo troppo in particolari, come dire, diciamo che la seconda persona della Santissima Trinità, per analogia, quindi prendete questa cosa con le molle, è un po' l'intelletto divino, un po' l'intelligenza divina. Quando San Tommaso d'Aquino parla delle tre persone della Santissima Trinità, usa questa immagine, dice Dio Padre, contemplando e conoscendo se stesso, Figlio si ama, Spirito Santo. Diciamo che la parte intellettiva e sapienziale viene sempre attribuita alla seconda persona della Santissima Trinità. Detto questo, passiamo subito alle brevi note introduttorie circa l'autore e la struttura. Qui c'è una bellissima miniatura, ecco. Incipit liber sapientiae Salomonis. Quindi, chi sarà l'autore? È tradizionalmente attribuito a Salomone. Questa volta in questo libro non c'è il primo versetto, libro della sapienza, che è di Salomone, ma nella seconda parte Salomone non si nomina mai, ma parla di un re e di tante caratteristiche di questo re che non può essere altri che lui. Ovviamente, come sempre, gli autori moderni non rifiutano l'attribuzione del re a Salomone, dicono che si tratta di un fenomeno di pseudepigrafia, quindi antedatano di molto il libro fino al circa quinto secolo, quarto secolo, qualcuno addirittura anche il terzo. Questo perché, per qualche notazione, non ve ne importa niente, però ve lo dico lo stesso, tanto per cultura personale, perché il libro della Sapienza non è venuto scritto in greco, quindi una eventuale redazione ebraica del libro della Sapienza non c'è pervenuta, non esiste, cioè non è che non esiste, non c'è arrivata. Tra l'altro, poi quando lo vedremo, questi sono i 21 attributi della Sapienza che si trovano nella seconda parte, sono praticamente quasi uguali. Per chi di voi ha fatto il liceo classico o lo scientifico, dove sta? Dovrebbe aver studiato in filosofia il neoplatonismo, tra cui non soltanto Plotino, ma anche il buon Cleante. Ora, i 21 attributi della Sapienza, sorprendentemente, sono quasi uguali agli attributi che Cleante dà al sommo bene. Quindi, siccome Cleante è neoplatonico, vissuto nel terzo secolo avanti Cristo, dice l'autore del libro della Sapienza, questi sono gli esegeti moderni, ha copiato e quindi doveva conoscere gli scritti di Cleante e ha attribuito alla Sapienza gli stessi attributi che Cleante attribuisce a bene. Quindi non ce ne importa niente tutte queste cose, però tanto per cultura personale abbiamo dette. Comunque, la struttura del libro della Sapienza è fondamentalmente in tre parti. Nella prima, una più bella delle altre, diciamo che la parte, diciamo, un po' meno per certi aspetti avvincente, è la terza parte. Però la prima e la seconda, secondo me, sono proprio da leggere rigo e da meditare rigo per rigo, dall'A alla Z, quindi dal capitolo 1 al capitolo 9 o 10, che adesso lo vedremo, sono davvero da tenere presenti. Allora, prima parte, la Sapienza nei giusti e la stoltezza negli impi. Quindi è proprio concepita come questa antinomia, proprio questo, come un contrasto enorme tra la saggezza dei giusti che scatena l'odio degli empi, gli empi che fanno guerra e sembrano vincere i giusti, ma in realtà sono i veri perdenti. Chiaramente più di qualche autore, specialmente in alcuni passaggi, ha visto prefigurata e profetizzata per fide e per segno la passione di nostro Signore Gesù Cristo, specialmente nel capitolo, mi sembra che è il terzo, comunque poi lo leggeremo. Seconda parte, la Sapienza e il re Salomone. Qui ci sono dei passi, guardate, veramente che sono da incorniciarsi, specialmente la preghiera per ottenere la Sapienza. Se ci venisse l'ispirazione di recitarla tutti i giorni, sarebbe fatica ottimamente impiegata. E poi l'ultima parte invece è un lungo excursus dove Salomone, partendo da Adamo e arrivando fino a Mosè e alle 10 piaghe d'Egitto, mostra come la Sapienza ha operato nella storia della salvezza. Questa è una lunga sezione, dal capitolo 10 al capitolo 19. Diciamo che la terza parte occupa, dal punto di vista quantitativo, quanto la prima e la seconda messi insieme, anzi anche un capitolo di più. Proseguiamo con una enumerazione sintetica e non esaustiva, ecco, delle principali tematiche affrontate in questo libro sapienziale. Allora, anzitutto, la Sapienza è il bene supremo. Tema comune anche questo ai filosofi. Voi sapete che in greco filosofia significa letteralmente amico della sapienza. La somma occupazione dell'uomo è questa, è la ricerca della sapienza. Pensate quanto noi contemporanei stiamo lontani dal senno. Noi siamo stati fatti per questo. Se vi ricordate il Catechismo di San Pio X, Dio ci ha creati per conoscerlo, amarlo e servirlo in questa vita e poterlo nell'altro. Io mi arrabbio con i ragazzini perché gli dico: state attenti che questo numero va enunciato così come è scritto. Comincia a dire: Dio ci ha creato per servirlo, amarlo e conoscerlo. No, perché tu non puoi servire ed amare chi non conosci. Quindi conoscere Dio è sapienza, come vedremo. Quindi cercare di lavorare, ricordate Gesù nel Vangelo, cercate e troverete, chi cerca trova, lo vedremo, la sapienza si lascia trovare da quanti la cercano, sta aspettando, però la sapienza non viene trovata se non da chi la cerca, e trovare la sapienza è il bene supremo, perché se uno trova la verità, trova tutto, perché la verità serve, numero uno, a conoscere il vero, numero due, a conoscere il buono, il numero tre, a sapere come vivere, e il numero quattro, a rispondere a tutte le domande principali dell'uomo. Io a qualcuno gliel'ho detto tante, io avevo tantissime domande quando ho cominciato a cercare il Signore, ma tante, ma grosse. Io vi posso dire, e ho testimonio davanti a Dio, che tutte le domande profonde che portavano nel cuore hanno avuto tutte una risposta. Per cui se voi dovessi dire: tu oggi hai delle domande grosse, dei dubbi, la risposta è no. I dubbi e i problemi esistono sulla valutazione di alcune cose contingenti, ma non sulle grandi problematiche dell'uomo. Perché sapere chi siamo, da dove veniamo, dove andiamo, perché c'è il male, perché c'è la sofferenza, perché c'è la morte, cosa c'è dopo la morte, si può. Anche tutte le altre grandissime questioni, mi ricordo quando ero più giovane, la grande domanda: che rapporto c'è tra la volontà di Dio e la libertà dell'uomo? Ma proprio le domande delle domande. Che differenza c'è tra il destino e la provvidenza? Proprio le domande, a tutto c'è una risposta, ma proprio a tutto è una risposta convincente, non una risposta, c'è cioè una risposta che scende nel cuore e che genera delle convinzioni, come dire, granitiche, perché appunto sono supportate da ciò che il nostro intelletto riesce a comprendere. Noi siamo stati fatti per questo, quindi. Pensate agli uomini che stanno, che mangiano, bevono, dormono e non pensano a niente, cioè che fanno una vita che non è una vita da uomini, è una vita da cani, perché sono i cani che mangiano, bevono, dormono e pensano soltanto a farsi qualche bella passeggiata, e quando arrivano il terzo sabato del mese e qui stanno le cene con i ragazzi del post-cresima che avanzano gli avanzi e le cose, stanno tutti contenti e seduti davanti al cancello in attesa che arrivi qualcosa. Ma ci sono tanti uomini che vivono come il mio caro cagnolino, vabbè, comunque, andiamo oltre. Secondo, chiarissima, primo libro della Bibbia dove compare questo tema, la fede nell'immortalità dell'anima, non soltanto, questo l'abbiamo visto nei Maccabei, ricordate, la risurrezione dei corpi, qui si parla proprio chiaramente dell'immortalità dell'anima, ecco un altro motivo per cui i sacentoni moderni dicono: ah, ma l'immortalità dell'anima non approfondì i filosofi greci, soprattutto Socrate e Platone, quindi sicuramente chi ha scritto viene dopo Socrate e Platone perché ha copiato, quindi questo è detto in... Però qui compare chiarissimamente, e lo vedremo, il tema dell'immortalità dell'anima. Poi l'origine della morte, qui c'è una risposta chiara: perché c'è la morte? Vedremo in Sapienza 2.24, come ricordo a memoria, c'è una chiara risposta: perché noi moriamo? Perché c'è la morte nel mondo? Che non è colpa del Padre Eterno. E vedremo che belle parole che vengono dette. Poi, la ricerca della sapienza come compito supremo della vita umana, quindi non soltanto come bene supremo, ma come compito supremo. Quindi la cosa più importante è cercare la sapienza. Questo vale per tutti, non soltanto per i preti, per i frati, per le suore. Certo, una persona che ha tante cose da fare, che vive nel mondo, non può stare con l'occhio per aria immerso in contemplazione e dentro il pensatoio dalla mattina alla sera, perché c'è anche altre cose a cui pensare. Però tra non starci dalla mattina alla sera e non starci per niente ci corre sempre un po' di differenza. Poi altra tematica: la reale possibilità di trovare la sapienza e conseguentemente di vivere secondo sapienza. Quindi sono delle cose possibili e realmente possibili, quindi non sono utopistiche. Poi la personificazione della sapienza, ovvero la descrizione allegorica del Verbo eterno di Dio, capite chi è la seconda persona della Santissima Trinità, sapienza increata e la sua azione nella storia della salvezza. Infine, ma infine non è un infine, questa è una enumerazione sintetica ed esemplificativa, non sono tutti i temi trattati nel libro. Troviamo, per esempio, sorprendentemente, qui una prima enumerazione esplicita biblica delle quattro virtù cardinali, che se io ve le dovessi chiedere, chiaramente voi sapete quali sono le quattro virtù cardinali, giusto? Quali sono le quattro virtù cardinali? Quali sono le quattro virtù cardinali? Quali sono le quattro virtù cardinali? Adesso vado a prendere il tortore io, eh? Prudenza, giustizia, fortezza e temperanza. Chi non le sa vuol dire che non le ha. Allora qui siamo un po' scarsi. Ah, ci picchia, guarda. Ah, ci picchia. Adesso pronti a respirare un po' di cielo. Vedete che belle slide. Qui c'è la sapienza increata, circondata dalle colombe che abbraccia chi l'ha trovato. Ecco, ci stanno dei passi. Qui c'è proprio tutti quanti, in alcuni passi di questo libro sono tutti quanti i miei desideri concentrati, dopo quelli che quando li leggo. Allora, numero uno, chi è la sapienza? Capitolo primo, qui si può quasi leggere senza commento, versetti 1-15, questo è un libro più che altro da gustare. Amate la giustizia voi giudici della terra, questo è proprio l'incipit, eh? Pensate al Signore con bontà d'animo e cercatelo con cuore semplice. Egli infatti si fa trovare, attenzione, da quelli che non lo mettono alla prova. Non si mette alla prova il nostro Signore, non si tenta. Si lascia trovare, quindi, si può trovare Dio e si manifesta a quelli che non diffidano di Lui. Attenzione. I ragionamenti distorti separano da Dio. La vecchia traduzione, secondo me migliore in questo punto, diceva: i ragionamenti tortuosi allontanano da Dio. Quindi la testolina nostro Signore ce l'ha data non per farla sragionare, ma per farla ragionare bene. La potenza messa alla prova spiazza gli stolti. La sapienza non entra, questo bisogna attaccarselo sopra il letto, in un'anima che compie il male, né abita in un corpo oppresso, vecchia traduzione, schiavo del peccato. Quindi tutti quanti gli autori spirituali dicono: vuoi metterti agli antipodi della sapienza? Ecco, fai peccati impuri, questo è proprio proporsi proprio alla massima distanza possibile dalla sapienza. Oppure fai peccati anche non impuri. La sapienza non entra in un'anima che compie il male, né abita in un corpo oppresso dal peccato. Il Santo Spirito, cioè lo Spirito Santo, che ammaestra, fugge ogni inganno e viene si tiene lontano da discorsi insensati. Quanti te ne fanno? I discorsi insensati sono non solo le parole, sono le chiacchiere, le maldicenze, eccetera. Viene scacciato dal sopraggiungere dell'ingiustizia. La sapienza è uno spirito che ama l'uomo e tuttavia non lascia impunito il bestemmiatore per i suoi discorsi, perché Dio è testimone dei suoi sentimenti, conosce bene i suoi pensieri e ascolta ogni parola. Lo spirito del Signore riempie la terra e, tenendo insieme ogni cosa, ne conosce la voce. Per questo non può nascondersi chi pronuncia cose ingiuste, né lo risparmierà la giustizia vendicatrice. Si indagherà infatti sui propositi dell'empio. Il suono delle sue parole giungerà fino al Signore a condanna delle sue iniquità, perché un orecchio geloso ascolta ogni cosa. Perfino il sussurro delle mormorazioni non gli resta segreto. Questo dobbiamo pensarlo spesso. Io tante volte, quando confesso alle persone, spesso, perché capite, confessarci ci costa sempre tanto, anche perché c'è la componente umana della vergogna. E invece Dio vuole che ci umiliamo. Messaggi di Ele Scoriano, andatevi a leggere dal sito. Confessatevi, perché Dio vuole che vi umiliate. Dovete umiliarvi. Chi si confessa poco non si umilia, è superbo. Umiltà. Però non bisogna vergognarsi del prete. Che te vergogni del prete? Devi vergognare il Padre Eterno, perché è lui che ha visto i peccati che hai fatto, è lui che ha sentito quello che hai detto, mica il prete. Non dobbiamo vergognarsi, dobbiamo stare attenti che stiamo sotto l'occhio di Dio quando noi pecchiamo. Guardatevi dunque da inutili mormorazioni, specialmente le signorine. Preservate la lingua dalla maldicenza, perché neppure una parola segreta sarà senza effetto. Una bocca menzognera uccide l'anima. Non affannatevi a cercare la morte con gli errori della vostra vita. Non attiratevi la rovina con le opere delle vostre mani. Già qui comincia a dire qualcosa. Voi non potete immaginare un prete quando trova qualche anima che non c'è niente da fare. Per quanto uno si sforzi di tante cose, tu vedi una persona davanti a te che si rovina, che cerca la morte con gli errori della vita, si attira la rovina con l'opera delle sue mani, non ci può fare niente. Perché fai la strozzi? Gli tiri il collo? Che fai? È che capita purtroppo qualche volta. Cioè, noi ci ritroviamo, anche chi vi parla, con la vita riempita di guai, solo ed esclusivamente per colpa nostra, non per colpa del Padre Eterno. Diciamo a Dio: ma mi lascia così, si è dimenticato di me. Ma che t'ha detto? Dio non ha creato la morte, non gode per la rovina dei viventi, non sta lì: ah, che bello, come soffre, crepa. Ma non dice così il Padre Eterno. Lui ha creato tutte le cose perché esistano, e le creature del mondo sono portatrici di salvezza. In esse non c'è veleno di morte, né il regno dei morti è sulla terra. La giustizia, infatti, è immortale. Non c'è niente quasi qui da commentare, però vi prego, rileggete il libro della Sapienza, fermatevi a meditare su queste cose, non soltanto a leggerle come se fossero un romanzo, perché è davvero. Poi, secondo brano, gli empi e i giusti, anche questo è proprio memorabile, stupendo. Quindi dal versetto seguente, 1:16 fino al capitolo 3:12, questo lo leggiamo tutto, perché è veramente da conoscere bene. Ma gli empi invocano su di sé la morte con le opere e con le parole. Bellissima. Invocano su di sé la morte con le opere e con le parole. Empio, abbiamo già trovato un esame. Empio vuol dire l'uomo non pio. L'uomo pio è quello che mette Dio al primo posto e che osserva la sua legge. L'uomo non pio è quello che si infischia di Dio e fa quello che gli pare. L'ho detto in due parole. Guardate, ritenendo l'amica, si struggono per lei. Pensa che cretini. Con essa stringono un patto perché sono degni di appartenerle. Dicono fra loro sragionando: la nostra, guardate, questo è Vangelo del secolo XXI. Questo è, guarda quanta gente che se tu gli mettessi in bocca queste parole le sottoscrive senza nessun problema. Dicono fra loro: la nostra vita è breve e triste. Non c'è rimedio quando l'uomo muore, e non si conosce nessuno che liberi dal regno dei morti. Quando morì qui, ci sono alcune cose che rimangono un pochino impresse. Un po' di tempo fa qui morì un giovanotto, lo conoscete tutti quanti, di morte violenta, uno che stava paralizzato sulla sedia a rotelle. Il gruppo dei suoi amici ha scritto una bella letterina che hanno letto chiaramente fuori della chiesa dopo il funerale, perché da queste parti si usa fare così, perché la liturgia. Allora, una delle frasi la ricorderò, ma è rimasta impressa, dice è morto, insomma, in maniera tragica. Abbiamo chiesto al cielo che qualcuno ci dicesse perché, non abbiamo avuto nessuna risposta. Non si conosce nessuno che liberi dal regno dei morti, no? Siamo nati per caso. Mo non posso fare commenti volgari, perché qualcuno, insomma. E dopo saremo come se non fossimo stati. È un fumo il soffio delle nostre narici. Il pensiero è una scintilla nel palpito del nostro cuore. E lo spirito svanirà con aria sottile. Il nostro nome cadrà con il tempo nell'oblio e nessuno ricorderà le nostre opere. Quindi non serve fare opere buone, tanto tutti se le dimenticano. La nostra vita passerà come traccia di nuvola, si dissolverà come nebbia, messa in fuga dai raggi del sole e abbattuta dal suo calore. Passaggio di un'ombra è infatti la nostra esistenza, e non c'è ritorno quando viene la nostra fine. Avete visto, dice, che ci sta dopo la morte l'aldilà? A me nessuno è mai tornato a raccontarmelo, quindi lo dici tu che c'è l'aldilà, giusto, no? Questo è il Vangelo del XXI. Poiché il sigillo è posto e nessuno torna indietro, allora che facciamo? Venite dunque, godiamo dei beni presenti, gustiamo delle creature come nel tempo della giovinezza. Vi ricordate quel bel poeta decadentista al secolo Cecco Angiolieri? Quanta è bella giovinezza che si fugge tuttavia. Chi vuole essere lieto sia. Valeria si arrabbia adesso. Del domani non v'è certezza. Ecco. Quello è Lorenzo Magnifico. Eh? Questo è Lorenzo Magnifico. No, no. Sì. Lorenzo Magnifico? Non è Cinque Angiolieri? Se fossi poco, porca miseria, se fossi poco a vedere lo mondo. Grazie Valeria, giusto? Ah, se fossi cieco con le osone sue, le donne racchie lascerei. No, terrei per me le donne belle e giuste, le donne racchie lascerei altrui, una cosa del genere. Ecco. Comunque, erano amici Lorenzo e Cecco. Ecco, allora che facciamo? Godiamo dei beni presenti, evviva! Gustiamo delle creature come nel tempo della giovinezza, saziamoci di vino pregiato e di profumi. È questo che i santi non volevano vedere tutti quelli improfumati come Gagà, eh? Zitta, non ci sfugga alcun fiore di primavera, coroniamoci di boccioli di rose prima che avvizziscano. Nessuno di noi si è escluso dalle nostre dissolutezze, lasciamo dappertutto i segni del nostro piacere, perché questo ci spetta, questa è la nostra parte, e poi facciamone pure qualcun'altra. Spadroneggiamo sul giusto che è povero, noi io, che brutta cosa, non risparmiamo le vedove, non abbiamo rispetto per la canizia di un vecchio attempato. Questo oggi uno dei segni grossi della decadenza attuale. La nostra forza sia legge della giustizia, perché la debolezza risulta inutile. Tendiamo insidie al giusto che per noi è di incomodo e si oppone alle nostre azioni. Ci rimprovera le colpe contro la legge. Che noia, che petulante. Ecco. E ci rinfaccia le trasgressioni contro l'educazione ricevuta. Proclama di possedere la conoscenza di Dio. Pensa un po' che presuntuoso. E chiama se stesso figlio del Signore, è diventato per noi una condanna dei nostri pensieri. C'è insopportabile solo al vederlo. Meno lo vedo e meglio sto. Perché la sua vita non è come quella degli altri, e del tutto diverse sono le sue strade. Pensa un po' come ci considera questo screanzato. Siamo considerati da lui moneta falsa. Si tiene lontano dalle nostre vie come da cose impure. Fanno schifo le nostre cose, ma guarda un po' che strano uomo. Addirittura proclama beata la sorte finale dei giusti e si vanta di avere Dio per padre. Allora che facciamo? Vediamo un po' se le sue parole sono vere. Consideriamo ciò che gli accadrà alla fine. Qua, se il giusto è figlio di Dio, egli verrà in suo aiuto. Sono quello che hanno detto le guardie durante il processo di Gesù e la sua morte. E lo libererà dalle mani dei suoi avversari, no? Se sei figlio di Dio, scendi. Mettiamolo alla prova con violenze e tormenti, per conoscere la sua mitezza e assaggiare il suo spirito di sopportazione. Condanniamolo a una morte infame, perché secondo le sue parole il soccorso gli verrà. Storia della passione di nostro Signore Gesù Cristo. Hanno pensato così, ma si sono sbagliati. La loro malizia li ha accecati. Non conoscono i misteriosi segreti di Dio, non sperano ricompensa per la rettitudine che c'è, né credono a un premio per una vita irreprensibile che c'è. Sì, ecco qui, Dio ha creato l'uomo per l'incorruttibilità, lo ha fatto immagine della propria natura, ecco la morte, ma per l'invidia del diavolo la morte è entrata nel mondo e ne fanno esperienza coloro che gli appartengono. Della grande risposta a Sapienza 2:24. Dio non ha creato la morte. La morte è entrata nel mondo per l'invidia del diavolo e ne fanno esperienza coloro che gli appartengono ancora. Questa è una delle letture che si leggono ai funerali dei santi veri, non di che tutti i funerali vanno tutti in paradiso come dicono oggi, che sono tutti canonizzati dal prete che celebra il funerale anziché da Santa Romana Chiesa con un processo di canonizzazione. Questo non è vero, però a volte muore qualche persona degna di questa lettura, infatti si legge durante i funerali. Le anime dei giusti sono nelle mani di Dio, che è stupenda, nessun tormento le toccherà. Agli occhi degli stupidi, degli stolti, parve che morissero. La loro fine fu ritenuta una sciagura, la loro partenza da noi una rovina, ma essi sono nella pace. Anche se agli occhi degli uomini subiscono castighi, qui c'è il mio grande amico, al suo funerale è stata letta questa lettura e ne era degno di sentirla. Anche se agli occhi degli uomini subiscono castighi, un anno di croce, il tumore stroncato a 23 anni, la loro speranza resta piena di immortalità in cambio di una breve pena. Cosa vuoi che sia un anno di croce in compenso tutta l'eternità? Riceveranno grandi benefici perché Dio li ha provati, li ha trovati degni di sé, li ha assaggiati come oro nel crogiuolo e li ha graditi come l'offerta di un olocausto, li ha torchiati per bene. Dio ci torchia ogni tanto in senso buono. Nel giorno del loro giudizio risplenderanno come scintille nella stoppia, correranno qua e là, governeranno le nazioni, avranno potere sui popoli. Vi ricordate Gesù? Voi che avete perseverato con me nelle mie prove, preparo un regno e siederete con me in trono a giudicare le 12 tribù di Israele. E il Signore regnerà per sempre su di loro. Coloro che confidano in Lui comprenderanno la verità. I fedeli nell'amore rimarranno presso di Lui perché grazia e misericordia sono riservate ai Suoi eletti. Se c'è qualcosa di più bello di queste parole, insomma. Poi, la morte prematura, grande disgrazia, grande sciagura, grande... Altro brano che si legge da alcuni funerali, altro brano stupendo. Alcune frasi veramente sapienza allo stato puro sono degne di essere immortalate. Il giusto, 4:7-19, anche se muore prematuramente si troverà in un luogo di riposo. Attenzione, vecchiaia veneranda non è quella longeva, né si misura con il numero degli anni, ma canizie per gli uomini nella saggezza. Età senile è una vita senza macchia. Per cui San Domenico Savio, che è morto a 16 anni, era molto più vecchio di chi muore decrepito come uno stupido, che ha fatto una vita inutile e sciocca. Divenuto caro a Dio, fu amato da Lui. Quindi la morte prematura è una benedizione, non è una maledizione. Santa Gemma Galgani, una delle creature più pure che sia esistita al mondo, morta a 24 anni. Santa Teresa di Gesù Bambino, una delle anime più pure, morta a 24 anni. Santa Faustina Kowalska, abbiamo prestato la mela festa di misericordia, morta a 33 anni. Le anime belle, il Signore se le prende subito e le porta via da sto monnezzaio, che a me è meglio che me ce lascia, perché sono brutto, se no fa la calga dei secoli del purgatorio. Ma se fossi bello, sarebbe da pregare tutti i giorni che uno muore. Non lascio perché c'è le pecorelle. Ma che te pecorelle? Io ti lascio, se no purgatorio, già ci sto comunque fino al giudizio universale, però se resta un altro po' può darsi che sto al purgatorio intermedio fino al giudizio universale, se non sto al purgatorio in mezzo ai demoni, se ci vado adesso. No, fa male, va bene. Divenuto caro a Dio, fu amato da lui, e poiché viveva fra peccatori, fu portato altrove, beatissimo. Che Dio li strabenedica e li ricompensi. Un altro, San Luigi Gonzaga, morto a 23 anni. San Luigi Gonzaga era talmente puro che, questo ce l'ho raccontato in seminario, che viveva a Roma e non conosceva le strade di Roma, perché quando camminava guardava per terra per non sporcarsi gli occhi con qualche visione in vere conto. Lo portiamo a tutte quelle zozzone che girano oggi. Ecco. Fu rapito perché la malvagità non alterasse la sua intelligenza o l'inganno non seducesse la sua anima. Guardate, poiché il fascino delle cose frivole, vado a sentire voi, oscura tutto ciò che è bello. E il turbine della passione perverte un animo senza malizia. Da questi quante sono rovinate, che era meglio che il Signore se li prendeva prima. Giunto in breve alla perfezione, ha conseguito la pienezza di tutta una vita. La sua anima era gradita al Signore, perciò si affrettò a uscire dalla malvagità. Ecco poi gli stupidi, la gente vide ma non capì, che disgrazia, poverino, non si è vissuto la vita, che guaio. Ecco. Non ha riflettuto su un fatto così importante. Grazia e misericordia sono per i suoi eletti e protezione per i suoi santi. Il giusto da morto condannerà gli empi ancora in vita. Una giovinezza giunta in breve alla conclusione condannerà gli empi pur carichi di anni. Infatti vedranno la fine del saggio, ma non capiranno ciò che Dio aveva deciso a suo riguardo, né per quale scopo il Signore l'aveva posto al sicuro. Vedranno e disprezzeranno, ma il Signore li deriderà. Quindi mi raccomando, non cominciamo a fare le prefiche oppure i prefiche, poverino! Quelli non sono, quella non è la morte del giusto, però è la morte di chi si mette sotto il dominio di Satana, che dopo ti rende quello che è. Gli incidenti vengono dal demonio, non vengono da l'80% degli incidenti, adesso, durante gli esorcismi, sono opera mia. Sì. Le tragedie e i lutti delle stragi del sabato sera, capite bene quello che sto dicendo. È ovvio che tutti quanti noi siamo addolorati e piangiamo per la fine di una vita umana innocente. Ma non è che se la cerchi in un modo, la vai proprio a cercare con lanternino, ma che devi fare? Vabbè. Poi la sapienza si può trovare. Altro passo bellissimo. 6:12:21. Scopo di questa sera è che ci innamoriamo della sapienza. La sapienza è splendida e non sfiorisce. Attenti, facilmente si lascia vedere da coloro che la amano e si lascia trovare da quelli che la cercano. Però bisogna cercarla bene. Attenzione però, che nel farsi conoscere previene coloro che la desiderano. Questo è tutto autobiografico, io dico tutto questo, confermo per quanto possa, che è vero, stravero. Chi si alza di buon mattino e non dorme, per cercarla non si affaticherà, la troverà seduta alla sua porta. Riflettere su di lei infatti è intelligenza perfetta. Chi veglia a causa sua, quindi venite alle veglie, sarà presto senza affanno, anche se dorme nemico, però è affannato poco. Perché lei stessa va in cerca di quelli che sono degni di lei. Appare loro benevola per le strade, in ogni progetto va loro incontro. Attenzione, qual è il principio della sapienza? Questo potete verificare se l'avete nel cuore. Suo principio più autentico è il desiderio di istruzione, il voler imparare, il voler conoscere. La coscienza, questo lo sapeva pure Socrate. Ho fatto pure qualche predica in chiesa, perché i pagani oggi fanno da maestri alla quasi totalità dei cristiani, in quanto battezzati e iscritti in qualche ufficio parrocchiale soltanto per sporcare in chiostro un foglio, non serve a nient'altro. Socrate diceva: so di non sapere, è l'inizio della sapienza. Cioè, se uno sa di non sapere, desidera essere istruito, è fatta. Perché se c'è questo, Dio ti istruisce, ti dice tutto, piano piano, non tutto e subito, ma ti dice tutto quello che è necessario per te. L'anelito per l'istruzione, quindi sia l'istruzione, è amore. E attenzione, guardate che bello, eh? Quindi, desiderio di istruzione. Questo desiderio è amore. Ma che cos'è l'amore? L'amore è osservanza delle sue leggi. Se mi amate, osservate i miei comandamenti, dice Gesù nel Vangelo. E l'osservanza delle leggi e dei comandamenti è garanzia di incorruttibilità. Quindi, per rendersi degni della sapienza, bisogna cominciare a troncare con la vita disordinata, se no la sapienza non la trovi mai. E l'incorruttibilità rende vicini a Dio. Cioè, noi siamo tanto più vicini quanto più siamo lontani dal peccato, e siamo tanto più lontani quanto più siamo vicini al peccato. Dunque, il desiderio della sapienza innalza al regno. Se dunque, dominatori di popoli, vi compiacete di troni e di scettri, onorate la sapienza perché possiate regnare sempre. Poi, Salomone cerca e trova la sapienza, bellissimo. Quindi la sapienza si può trovare, a un certo punto nel capitolo settimo, siamo già passati nella seconda sezione, dice: io l'ho trovata. E quindi Salomone si racconta, 7:14, anche questo. Allora, per questo pregai, attenzione, mi fu elargita la purezza, la prima cosa bisogna pregare, tanto implorai e venne in me lo spirito di sapienza. Attenzione però, perché non basta, bisogna fare delle scelte. La preferì a scelti e troni. Vi ricordate quando Salomone va sul regno, che Dio gli dice: chiedimi quello che vuoi e te lo darò. Che cosa chiede già Salomone? Dammi la sapienza per governare bene il tuo popolo. Quindi non è che dice frescacce, la preferì a scelti e troni. Dice: poiché non mi hai chiesto il successo sui tuoi nemici, poiché non mi hai chiesto questo, non mi hai chiesto i beni della terra, ti darò la sapienza e tutto quello che non mi hai chiesto. La preferì a scelti e troni, stimai un nulla la ricchezza al suo confronto. I soldi non servono a niente se uno non ha la sapienza, e servono a poco quando uno ha la sapienza. Quando ha la sapienza spera che li usi bene. Non la paragonai neppure una gemma inestimabile, perché tutto l'oro al suo confronto è come un po' di sabbia, è come fango, sarà valutato di fronte all'argento. L'ho amata più della salute e della bellezza, due cose. La salute, state attenti che questo pure adesso, noi la salute dobbiamo conservarla, ma non dobbiamo essere esauriti, d'accordo? Troppo, quindi non faccio qualche piccolo sacrificio, se no mi viene il raffreddore, e che non fa niente, te lo curi il raffreddore. Santa Teresa diventava una belva con le sue monache, diceva: se siete venuti qui perché pure il monastero, e ci hanno paura che se poi usano la disciplinuccia e mi esce una puntina di sangue, poi mi viene il tetano, cioè andate a casa, andate, le proprio cacciate via. E della bellezza, vanità e sapienza non vanno d'accordo. No. No, perché qui la bellezza non è che proprio. Ma la bellezza non è oggettiva, la bellezza è come uno sta a scorticare, a specchiarsi, a pettinarsi, a spelasse, a spitturasse, a disegnarsi. Ho preferito avere lei piuttosto della luce. Perché lo splendore che viene da lei non tramonta, meglio cieco con la sapienza che vedendoci senza. Insieme a lei mi sono venuti tutti i beni. C'è una massima: se tu lasci Dio per le cose del mondo, perdi l'uno e perdi l'altro. Se tu lasci tutto, come dice Gesù nel Vangelo, per me, cosa avrai? Me più 100 volte tanto, tutto quello che hai lasciato, più il paradiso dopo. Insieme a lei mi sono venuti tutti i beni. Boh, non è che deve dire ti lascio tutto per avere la sapienza così divento miliardario quando Berlusconi, non deve fare così, perché questo non funziona. Quindi noi bisogna lasciare tutto per avere la sapienza, poi se viene anche il resto tanto meglio, se Dio lo reputa utile. Nelle sue mani una ricchezza incalcolabile, ho gioito di tutto ciò perché lo reca la sapienza, ma ignoravo che lei è madre di tutto questo. Ciò che senza astuzia ho imparato, senza invidia lo comunico, non nascondo le sue ricchezze. Ella è infatti un tesoro inesauribile per gli uomini. Chi lo possiede ottiene l'amicizia con Dio ed è a lui raccomandato dai frutti della sua educazione. Mi conceda a Dio di parlare con intelligenza e di riflettere in modo degno dei doni ricevuti, perché egli stesso è la guida della sapienza e dirige i sapienti. Nelle sue mani siamo noi e le nostre parole, ogni sorta di conoscenza e ogni nostra capacità operativa. Poi, ancora, i 21 attributi della sapienza, ecco l'inno al bene di Cleante, dicono alcuni. Attimo. 7, i 21 attributi. Non li commentiamo, dopo ci dovete fare l'orazione mentale, Quarto d'ora di meditazione per ogni attributo. Ecco. In lei c'è uno spirito intelligente, contate, santo, unico, molteplice, sottile, agile, penetrante, senza macchia, schietto, inoffensivo, amante del bene, pronto, libero, benefico, amico dell'uomo, stabile, sicuro, tranquillo, che può tutto e tutto controlla, che penetra attraverso tutti gli spiriti intelligenti, puri anche i più sottili. La sapienza è più veloce di qualsiasi movimento, per la sua purezza si diffonde e penetra ogni cosa. È effluvio della potenza di Dio, altri concetti ripresi dal mondo neoplatonico, emanazione genuina della gloria dell'Onnipotente, per questo nulla di contaminato penetra in essa. È riflesso della luce perenne, uno specchio senza macchia dell'attività di Dio e immagine della sua bontà. Mamma, sebbene unica, può tutto. Pur rimanendo in se stessa, tutto rinnova e attraverso i secoli, passando nelle anime sante, forma amici di Dio e profeti. Nulla infatti Dio ama se non chi vive con la sapienza. Bello, eh? E mo quello che viene dopo è più bello ancora. Perché? Sposare la sapienza. Autobiografico al 300%. 8.2.11. È lei che ho amato e corteggiato fin dalla mia giovinezza. E ho bramato di farla mia sposa. Mi sono innamorato della sua bellezza. Capito? Ella manifesta la sua nobile origine vivendo in comunione con Dio, perché il Signore dell'universo l'ha amata. Infatti è iniziata la scienza di Dio e discerne le sue opere. Se la ricchezza è un bene desiderabile in vita, che cosa c'è di più ricco della sapienza che opera tutto? Se è la prudenza ad agire, chi più di lei è artefice di quanto esiste? Se uno ama la giustizia, le virtù sono il frutto delle sue fatiche. Cosa insegna infatti la sapienza? Insegna le quattro virtù cardinali: la temperanza, e la prudenza, la giustizia e la fortezza, delle quali nulla è più utile agli uomini durante la vita. Guardate che qui sono enunciati in ordine diverso dall'ordine canonico, perché l'ordine gerarchico è: qual è la più grande delle quattro? È la prudenza. Al secondo posto viene la giustizia, al terzo la fortezza e al quarto la temperanza, come ordine di grandezza. Però tu le altre virtù non le acquisisci se non impari a essere temperante, né prendi la sapienza. La temperanza è la moderazione e il distacco da tutti i piaceri sensibili, dai beni di tutti i sensi, dalla televisione alle chiacchiere, al gusto, al tatto, tutto ciò è caso, tutto l'oggetto dei cinque sensi. Se no, le virtù non se ne parla. Se uno desidera anche un'esperienza molteplice, ella conosce le cose passate e intravede quelle future, conoscere sotto gli esseri discorsi e la soluzione degli enigmi, comprende in anticipo segni e prodigi e anche le vicende dei tempi e delle epoche. Un sapiente è capace di capire quello che succede nella storia, di dare dei giudizi fermi, i santi l'hanno sempre fatto, è anche capace di prevedere, non in senso stretto di fare delle profezie, ma di prevedere il futuro, non perché è un mago, ma perché è capace di comprendere la realtà presente e quindi di proiettare quello che vede nel presente nel futuro. Ho dunque deciso di dividere con lei la mia vita. Certo che mi sarebbe stata consigliera di buone azioni e conforto nelle preoccupazioni e nel dolore. Per lei avrò gloria tra le folle, e anche se giovane onore presso gli anziani, sarò trovato perspicace nel giudicare, sarò ammirato di fronte ai potenti. Se tacerò resteranno in attesa, e se parlerò mi presteranno attenzione, se mi dilungo nel parlare si tapperanno la bocca, non perché sbadigliano, ma perché rimarranno meravigliati. Grazie a lei avrò l'immortalità e lascerò un ricordo eterno a quelli che verranno dopo di me. Governerò popoli e nazioni mi saranno soggette. Sentendo parlare di me, crudeli tiranni si spaventeranno. Mi mostrerò buono con il popolo e coraggioso in guerra. Ecco qua. Ritornato a casa, riposerò vicino a lei, perché la sua compagnia non dà amarezza, né dolore il vivere con lei, ma contentezza e gioia. Ovviamente quando torni a casa trovi la moglie o trovi la sapienza. Ma ne vogliamo parlare? E poi, capitolo 9, la preghiera per ottenere la sapienza. Questa, guardate, se viene l'ispirazione tutti i giorni. Questo si trova anche nella liturgia delle ore nuove. Vediamo se la memoria, so anni che non le dico più, perché dico quelli antichi, dovrebbe essere il sabato della seconda settimana del Salterio. C'è una parte, infatti l'unico motivo per dire il breviario nuovo è che una volta ogni quattro settimane si recita la preghiera per ottenere la sapienza. Sto scherzando chiaramente, comunque. Dio dei padri e Signore di misericordia, che tutto è creato con la tua parola e con la tua sapienza hai formato l'uomo perché dominasse sulle creature che tu hai fatto e governasse il mondo con santità e giustizia e esercitasse il giudizio con animo retto, dammi la sapienza che siede accanto a te in trono e non mi escludere dal numero dei tuoi figli, perché io sono tuo schiavo e figlio della tua schiava, uomo debole, dalla vita breve, incapace di comprendere la giustizia e le leggi. Se qualcuno fra gli uomini fosse perfetto, priva della sapienza che viene da te, sarebbe stimato un nulla. Tu mi hai prescelto come re del tuo popolo e giudice dei tuoi figli e delle tue figli. Mi hai detto di costruirti un tempio sul tuo santo monte. Vedete Salomone? Evidentemente, insomma, no? Un altare nella città della tua dimora. Immagine della tenda santa che ti eri preparata fin da principio. Con te è la sapienza che conosce le tue opere, che era presente quando creavi il mondo. Lei sa quello che piace ai tuoi occhi e ciò che è conforme ai tuoi decreti. Inviala dai cieli santi mandala dal tuo trono glorioso, perché mi assista e mi affianchi nella mia fatica, io sappia che cosa ti è gradito. Ella infatti tutto conosce, tutto comprende, mi guiderà con prudenza nelle mie azioni e mi proteggerà nella sua gloria, con la sua gloria. Così le mie opere ti saranno gradite, io giudicherò con giustizia il tuo popolo e sarò degno del trono di mio padre. Adesso sono altri due versetti che a me personalmente mi piacciono tantissimo e che mi aiutano tanto in tanti momenti della mia vita. Ci ripenso spessissimo a questi. I ragionamenti dei mortali sono timidi, incerte le nostre riflessioni, perché un corpo corruttibile appesantisce l'anima e la tenda d'argilla grava la mente, ve la dico una traduzione antica, di molti pensieri, oppure la opprime di preoccupazione. A stento immaginiamo le cose della terra, scopriamo con fatica quelle a portata di mano, ma chi ha investigato le cose del cielo? Chi avrebbe conosciuto il tuo volere se tu non gli avessi dato la sapienza e dall'alto non gli avessi inviato il tuo Santo Spirito? Quindi quando io mi trovo in difficoltà su tante situazioni, mi ricordo per pregare queste cose. Noi già facciamo fatica a capire bene le cose che sono alla nostra portata, cioè le cose sensibili, perché per quanto uno possa sapere, la superbia dell'uomo è quanto di più idiota possa esistere nel mondo, perché per quante cose tu possa sapere sono nulla in confronto, soltanto in confronto allo scibile umano. Per quattro cose che, cioè, quante cose non sappiamo? Un'enormità. Voi pensate allo scibile umano. Quindi che fai? Cioè, non sei buono neanche a sapere quattro cose che riguardano la vita terrena, figuriamoci le cose di Dio. Quindi le cose di Dio bisogna chiederle, bisogna pregarci, bisogna bussare, bisogna cercarle, bisogna applicarci, sì. Bisogna essere sempre molto cauti, bisogna chiedere consiglio, bisogna trovare dei buoni maestri, bisogna leggere dalle fonti d'acqua pura, perché non è facile muoversi nelle cose di Dio. Perché già è difficile muoversi in quelle che sono la nostra portata. E poi, dall'ultima parte, leggiamo soltanto un versetto, che è quello un po' più discorsivo, che è quello sulla sapienza, sulla conoscenza naturale di Dio. Nel senso che nel libro della sapienza si trova un'affermazione, già che abbiamo visto nei salmi, che se una persona è una persona intelligente, cioè che fa funzionare bene il cervello, questo l'hanno fatto i filosofi pagani, giunge alla certezza del fatto che un Dio esiste, cioè un essere trascendente e soprannaturale. Poi chi sia, cosa voglia, come sia fatto è un altro discorso, ma che ci sia, sicuramente ci si può arrivare. Davvero vani per natura tutti gli uomini che vivevano nell'ignoranza di Dio, vani, quindi stupidi, e dai beni visibili non furono capaci di riconoscere colui che è, né esaminandole le opere li conobbero l'artefice. Ecco la conoscenza naturale di Dio. Tu vedi degli effetti, non puoi chiederti quali siano le cause di quegli effetti. Ma o il fuoco, o il vento, o l'aria veloce, o la volta stellata, o l'acqua impetuosa, o le luci del cielo, essi considerarono come dei reggitori del mondo. Qui parla delle aberrazioni delle religioni pre-ebraiche e pagane, che adoravano gli elementi naturali al posto di Dio. Se affascinati dalla loro bellezza li hanno presi per dei, pensino a quanto è superiore il loro sovrano, perché li ha creati colui che a principio è autore della bellezza. Se sono colpiti da stupore per la loro potenza ed energia, pensino da ciò quanto è più potente colui che li ha formati. Difatti, ecco il principio, guardate che in base a queste parole il Concilio Vaticano I ne ha tratto un dogma di fede, cioè è dogma di fede della Santa Fede Cattolica, che la mente dell'uomo può, in base alla conoscenza delle cose create, per analogia, giungere con sicurezza a conoscere che ci deve essere un Dio artefice di tutte le cose. Leggiamo: dalla grandezza e bellezza delle creature, per analogia, si contempla il loro autore. San Tommaso d'Aquino dice: perché Dio ci ha messo davanti gli enti creati, tutte le cose che vediamo? Perché guardandole potessimo contemplare un barlume, un frammento dell'infinita bellezza, bontà e verità di Dio, e basta. Non perché ci attaccassimo ad essi in modo disordinato, e ne trasformassimo in fonte di peccato. Tuttavia per costoro leggero è il rimprovero, perché essi facilmente si ingannano, cercando Dio e volendolo trovare. Vivendo in mezzo alle sue opere, ricercano con cura e si lasciano prendere dall'apparenza, perché le cose viste sono belle. Neppure costoro però sono scusabili, perché se sono riusciti a conoscere tanto da poter esplorare il mondo, come mai non ne hanno trovato più facilmente il sovrano? Questo era l'ultimo passo dei brani che abbiamo contemplato, direi di concludere, lasciandovi tutto avanti il resto alla vostra lettura personale. Però, sinceramente, a mio parere, questo libro, anche se l'abbiamo letto, non c'è bisogno di tantissimi commenti. Io lo consiglio sempre, perché se uno vuole leggere un po' di Bibbia, il libro della Sapienza trova profondissima, come dire, sapienza, quindi profondissimi spunti di meditazione, che se uno meditasse solo questo tutta la vita diventerebbe santo, senza trovare le difficoltà che tante volte si incontrano. Adesso noi siamo anni che facciamo gli incontri biblici con alcuni passaggi della Sacra Scrittura. Il libro della Sapienza è tanto profondo quanto scorrevole, facilissimamente quindi comprensibile, ecco, però racchiude davvero un tesoro inestimabile. Quindi vi lascio come compito a casa di leggerlo tante volte, di meditarlo, di assimilarlo, di metterlo in pratica e anche di gustarlo, perché leggere queste cose dà grandissima gioia e consolazione alle nostre anime. Siano lodati Gesù e Maria.